Friuli nel mondo, 175esima trasmissione dedicata agli emigrati. Il coro Jacopo Tomadini di Udine, diretto da Mario De Marco, vi dedica oggi, cari amici radioascoltatori, una seconda fiorita di villotte che con il soffio della primavera vi portano anche il cuore del Friuli. È la piccola patria che con il canto fa rivivere un passato denso di storia, di civiltà e di poetiche tradizioni della nostra gente. Ascoltate «Vuoi là celeio». Amor mio, no fami quintre. Jesus io, la me vitine. E memari e gno pari. Legnot e scur di ploe. Legnot e scur di ploe. Se tu senza di, Ninine. Venerastu San Martin. Venerastu San Martin, che faremmo un gote fin fare la gioca. San Martin non è riva, la tempesta mi offre a sul col de luna. A me discon del moros, alle vecchio La biele son pladine. Ti hai amate giovanine. E ei evade la biele stele. Lis montagnis a singrisin. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.